Radio 24. Libera la voglia di fare. Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Immobiliare praticamente lesionato e massacrato all'80%. I dreamed of something Augustine, life is you or me. Problemi immani, guardi, il territorio del nostro paese è veramente, veramente finito. È una situazione apocalittica. Diciamo che abbiamo avuto più paura adesso che l'altra volta, perché lì era nel sonno. Adesso c'è, le due scosse sono state micidiali, tutta la gente che c'aveva nelle case, diciamo, agibili, è scappata tutto. Siamo in un tentone che era della mente. Il resto è un disastro, non si resiste dalle continue scosse che poi sono significative, no? Fosse, amici, non ne parliamo nemmeno. Stavamo su un piazzale e si ballava. Poi sentiamo tutto, purtroppo è un momento difficilissimo. Siamo tutti quanti su un piazzale. È tutto un crollo adesso. È tutto un crollo. È un dramma per quello che teniamo, un dramma. Dal 24 di agosto, dunque, pensavamo di ricominciare, ma niente. E ricominciamo da capo tutto quanto, via. E così, voci dal terremoto, dalle nuove scosse di terremoto di ieri sera, la prima alle 19:10, Castel Sant'Angelo sul Nera, siamo in provincia di Macerata, poi alle 21:18 Ussita, magnitudo 5.9, e tra l'altro tra poco sentiremo il sindaco di Ussita. E, tre scosse nella notte si registra al momento. Un morto sarebbe legato a un problema di cuore, insomma, morto di infarto per lo spavento, però si registrano crolli, si registrano problemi e si registra, insomma, un paese nuovamente, dopo i recenti avvenimenti che hanno colpito soprattutto Amatrice, ancora a che fare con il terremoto. Allora, le 6:30 minuti, ovviamente, cari ascoltatori, se avete da mandarci notizie, testimonianze, noi siamo qui. Al 349-238-6666 il numero, mandateci via WhatsApp tutti gli aggiornamenti. Io saluto Carmelo Lauricella in regia e Lorenzo Nespoli in redazione. Saluto anche, lo ringrazio perché so che hanno da fare di meglio in questo momento, ma insomma anche l'informazione ha il suo ruolo. Il sindaco di Ussita, Marco Rinaldi, che è con noi in diretta, sono le 6:30 del mattino. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Grazie di essere qui. Allora, intanto, che notte è stata, e ci dica, da cronista oltre che da sindaco, gli ultimi aggiornamenti di quello che sta succedendo. La notte è stata... La cittadinanza l'ha passata tutta in macchina, fuori di casa, perché la gente ha paura, chiaramente, giustamente. E quindi non possiamo ancora fare un quadro preciso di quelli che sono quello che è l'entità del danno globale nel territorio, però, perché siamo ancora di notte, ancora non c'è la luce del giorno, però per quello che abbiamo visto i danni sono gravissimi. Cosa vuol dire danni gravissimi? Intanto ci aiuti a capire. Ussita, quanti abitanti avete a Ussita? Guardi, allora diciamo che Ussita. Ussita, mi perdoni. Questo è l'ultimo del problema. E Ussita ha iscritti all'anagrafe 450 abitanti. Sì. Però negli ultimi tempi, dopo il terremoto, il sisma dell'agosto scorso, che ci ha visto anche nella zona cratere perché abbiamo sentito fortissimo, negli ultimi tempi parecchi si sono appoggiati, gli anziani, andati a casa dei figli, quindi ipotizziamo con cautela che ieri sera al momento del terremoto ci fossero tra le 250 e le 300 persone. Ci sono stati crolli, sindaco? Tanti crolli, e io dico che l'inagibilità delle case sicuramente supererà l'80%, quindi proprio nell'incontro che abbiamo fatto qualche ora fa con la Protezione Civile Nazionale, che è intervenuta prontamente, e le devo ringraziare in pubblico perché veramente nel giro di un'ora già erano qui, e con i vigili del fuoco, con i carabinieri che sono sul posto, corpo forestale, e dicevamo che ci dobbiamo preparare a dover alloggiare circa 250 persone. Sì. Il problema, le preoccupazioni derivano dal calendario, siamo il 26 di ottobre, siamo in montagna e quindi potremmo da qui a pochi giorni avere la neve. Non possiamo ipotizzare di installare delle tendopoli perché non è possibile. Questa mattina faremo subito un sopralluogo con la Protezione Civile per verificare l'agibilità di tutte le strutture di campeggi che abbiamo sul territorio in modo di poter dare una sistemazione a tutti. Ma tra l'altro, sindaco, ci può almeno tranquillizzare sul fatto se si registrano vittime oppure no? Si parla di un morto? Nel mio comune, qui nel comune di Ussita, non si registrano vittime, questo è l'unico dato positivo. E certo, immagini che Ussita è una piccola valle, piccola comunità, però vive di turismo, abbiamo 5-6 giovie, centrali idroelettriche, palaghiaccio, piscina. Lei può immaginare che livello di preoccupazione c'è. Ma questo è chiaro, anche perché poi arriva ovviamente l'inverno, come dice lei, alle porte. Senta, sindaco, noi intanto la ringraziamo, ovviamente la lasciamo andare a doveri più importanti in questo momento, in cui la comunità è colpita, non solo la comunità di Ussita ma tutte le comunità limitrofe, tutto il territorio intorno. E intanto la ringraziamo. Ricordo Marco Rinaldi, il sindaco di Ussita, siamo in provincia di Macerata, e ripeto, tre scosse di terremoto, ancora si trema. Ovviamente noi siamo qua, ripeto, al 349-238-6666, se volete darci testimonianze, se volete dirci qualcosa, noi siamo pronti, come sempre fa Radio 24, ad aprire i microfoni. Intanto apriamo il Parlamento, perché qui abbiamo... Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Le nostre due ospiti di oggi, intanto Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno. Buongiorno. Si è sentito anche a Roma il terremoto? Sì, si è sentito abbastanza. Certo che è una cosa. Io mi ricordo, io abitando a Milano ho la fortuna di essere in una zona non sismica come altre zone d'Italia. Ricordo solo da piccolino, anche solo vedere il lampadario tremare, no? Sono quelle scene proprio di totale panico nel quale ti senti in balia di eventi che non puoi controllare minimamente. Insieme a Carla Rocchi voglio salutare il graditissimo ritorno della nostra Aurorina, anche se mi odiano tutti adesso quelli della Lega, mamma mia. C'è Sammy Varin di Radio Padania che se mi incontra mi tira sotto in macchina. Ma no, che Sammy, mi ha dato del deficiente, mi ha dato del cretino, mi ha dato dell'idiota. Un cuore d'oro, Sammy Varin. Intanto mi ha dato del deficiente. Due gemellini meravigliosi. Va bene, ma non è mica colpa loro se hanno questo papà, insomma, così che mi ha dato del deficiente. Un deficiente totale. Senti, Alessandro Milan. Senti, tra l'altro mi chiama pure Milan, come io ho chiamato Ussita, il comune di Ussita. Sentilo ancora bene. Senti. Un deficiente totale. Alessandro Milan. Vabbè, insomma, almeno digli che mi chiamo Milan, ecco, dai. Glielo dico. Va bene, dai, grazie. Aurorina Lusano, ho semplicemente ironizzato un po' il fatto che le frequenze di Radio Padania sono passate al calabrese. Suraci, quindi insomma c'è una nemesi incredibile in tutto questo. E sopravvive però dai Radio Padania, bisogna un po', ridimensionarsi, diventa una radio locale, ma Semivarin dai, è lì che fa la resistenza quotidiana. Dillo bene, no? una radio del nord, dillo bene. Rimane una radio, dillo. No, della Padania. Del nord. Il nord per me è la Valtellina, il nord della Padania è la Valtellina. Il nord. Vorrei fare questa cosa pubblica. Cara Carla Rocchi, possiamo darci del tu dopo tanto tempo? Sì, questa cosa così eccitante facciamo stamattina. va bene, allora da oggi ci diamo del tu, alle 6:37 di giovedì 27 ottobre ci diamo del tu in diretta, così non poteva fare altrimenti di fronte a questa richiesta molto esplicita e spiccia. Vogliono, cara Carla, togliere la parola nord dalla Lega Nord, vogliono fare un congresso per questo, basta il nord. Io trovo questo, che la Lega ha una caratteristica di tenuta nel tempo. Io ricordo i parlamentari della Lega in Senato agli albori, sì. Ed erano molto diversi, erano diversi gli obiettivi, erano diversi i linguaggi, erano diverse tante cose. E tutto si aggiorna, tutto cambia ed è una decisione naturalmente interna che prenderanno. Non ci trovo niente di particolare. Però c'è Bossi che è arrabbiato, Umberto Bossi. Lo so, e questo succede quando le cose cambiano, non si può essere noi a determinare i cambiamenti. A noi non piacciono mai i cambiamenti che non determiniamo, sì. E ci piacciono sempre quelli che determiniamo. Quindi io capisco che Bossi sia arrabbiato. Ma bella questa filosofia, filosofia spiccia. Cara Aurora, tu per esempio sei contenta di questo cambiamento che non controllerai e non determinerai e subirai passivamente? È interessante l'analisi sulla resistenza per chi magari come Rocchi ha conosciuto i senatori, quelli che io chiamo i pionieri della Lega degli albori. Oggi parlerei di resilienza, cioè la capacità comunque di resistere della Lega in questi 25 anni di storia. Ho capito, ma dovete resistere da cambiamenti dall'interno, cioè dovete resistere a voi stessi, dovete resistere a Salvini, ecco, questo è... Cioè fate la resistenza interna a Salvini, ma tu sei un... Una resistenza anche inevitabile magari a chi... nello statuto crede, l'articolo 1 ovviamente ci rimanda a un sogno di autodeterminazione dei popoli. L'articolo 1, cioè l'Italia è una repubblica basata su... No, non è quello. L'articolo 1 dello statuto della Lega. Ah, l'articolo 1 dello statuto della Lega. Carla Rocchi, come fa l'articolo 1 dello statuto della Lega? Farà la Lega è una repubblica futura basata su una secessione, immagino, andato così. Non lo so, più o meno. Forse il concetto credo che sia quello, però è una repubblica, la Padania è una repubblica futura. Io ho fatto tutti i congressi, tranne il primo ovviamente, quello fondativo che dalla Lega delle Leghe nasce la Lega Nord, no? Che è la svolta del 90. Sarà un bel congresso. La Lega è un movimento molto democratico, si fa il congresso e vediamo se ci sarà una svolta o meno, però insomma Salvini garantisce una continuità insomma col passato, con la storia, con la legittima volontà di autodeterminazione dei popoli, perché insomma è Salvini che io conosco da 20 anni, che insomma crede nell'autonomia dei territori. Va bene, ragazzi, abbiamo rimediato così. Semivarin forse adesso non mi darà del deficiente totale, staremo a vedere. Spero di avere così. Ma io pensavo, no, non lo sapevo, pensavo che stavano sulle balle gli altri tuoi colleghi, non sapevo. Ma no, perché un giorno ho fatto ironia su questa cosa e c'era Vincino, sapete che ha fatto così, ha definito, ha detto: "Ma Salvini Salvini sa solo cambiarsi le felpe, non sa neanche tenersi una radio, è un deficiente totale. Ma Vincino è così, fa satira, dà del deficiente totale a tutti, anche a me, lo chiamo, ciao cretino, ciao deficiente. Così è come il folk di Shakespeare, infatti. Buffone di corte, ma comunque straordinario anche loro. Comunque io ringrazio tutti quelli che mi stanno scrivendo anche dalla zona colpita, mamma mia ragazzi, questa è una cosa terribile. Ci scrive un ascoltatore, sono nel cratere nell'Ascolano, cioè il cratere, la zona colpita dal terremoto, sto andando a lavoro come tutte le mattine, credetemi, non si vive più. Questa è veramente veramente brutta, ci ritroviamo a contare ancora i danni, per il momento i danni, anche se c'è un morto per infarto, ma ancora a fare i conti con questa situazione davvero terribile. Invece situazione, io vorrei capire da Carla Rocchi, da Aurora Lussana, se questo almeno questo usare i toni duri e alzare la voce con l'Europa che ancora continua a mantenere Renzi sia una linea vincente, una linea giusta, una linea. Poi dopo parliamo degli immigrati, tranquilla Aurora, dopo parliamo della tua amata Goro il Gorino. Anzi, parliamone subito, dai, voglio dire, Carla Rocchi, agli abitanti di Goro e Gorino, quelli che hanno manifestato, quelli che ieri Luca Dini, qui il direttore di Vanity Fair, ha definito proprio brutalmente degli stronzi, così, ha usato questa parola. Carla Rocchi, che dobbiamo dire? Ma intanto voglio dire che se il prefetto avesse avuto la compiacenza di avvertire le persone che questa cosa stava accadendo, tutto sarebbe andato diversamente. Sì, il prefetto certo, non ha fatto l'episodio è deplorevole, che dobbiamo dire? 12 donne e 8 bambini, insomma, voglio dire, fa letto e detto, fa impressione a leggerlo e a dirlo. C'è da dire anche che questo sistema di piombare, scegliere posti inadatti, questo posto era assolutamente, per quello che capisco, inadatto, era l'unico posto, chiamiamolo, di ritrovo di questa piccola comunità, il bar, la gente si è vista dare un calcio nei denti, la reazione è stata veramente inaccettabile. E però anche, voglio dire, il solo fatto che il prefetto abbia fatto macchina indietro e che poi secondo me abbia un futuro di incerto il prefetto medesimo, la dice lunga su come le nostre istituzioni si muovono. Sì, l'hanno gestita veramente male, no? Dicendo requisiamo un ostello. Poi adesso cosa succede? Che a Gorino dicono no, ma noi non sapevamo delle donne, adesso siamo pronti a cercare di capire. No, però anche voi, voglio dire, avete fatto le barricate, appena hanno detto arrivano qui delle persone, adesso siccome non vogliono passare per razzisti, non vogliono passare per quelli che non volevano i neri, cara Aurora, non volevano i giargianesi, come li chiami tu, adesso vogliono fare un po' marcia indietro. Ma ho capito sì, che forse perché hanno subito l'umiliazione, l'accusa borghese di razzismo. Ma quale umiliazione? Cioè? Ma sì, ma allora io ripristinerei per loro lo stocco pontificio che veniva donato dai papi a chi resisteva contro l'invasione degli infedeli. Guarda, sono persone quelle lì, ho visto le interviste, ho letto oggi anche su Repubblica qualche retroscena, sono persone che vivono una realtà popolare, sono persone semplici che hanno subito ancora una volta, ripeto, l'umiliante accusa borghese che gli arriva addosso di essere razzisti, gente ho capito, ma sono razzisti o no? Cioè, nel senso, ti sembra normale fare le barricate perché devono arrivare delle persone? Cioè, il razzismo è una cosa seria. Quando tu accusi qualcuno di razzismo, che è una dottrina pseudoscientifica che è andata a legittimare che cosa? Chi erano i razzisti? Quelli che andavano a dominare gli altri popoli. I colonialisti sono razzisti. Va bene? Noi che stiamo per essere colonizzati dovremmo opporci a questa invasione. Quindi secondo me quindi hanno fatto bene o no? Cioè tu ma stai sono persone da premiare, quelli degli eroi che difendono loro. Poi lo dice anche oggi Chicco Testa, sto leggendo, Goro è come Capalbio, i migranti non sono lì. Non so se questo li farà ancora più arrabbiare, se i cittadini di Goro come i cittadini di Capaglio, il grande Chicco Testa, Capaglio, grande amico che abbraccio ovviamente, Chicco, no, ha dato, cara Carla Rocchi, ha dato agli abitanti di Goro l'appellativo di come abitanti di Capaglio, non so. Le donne e i bambini le aiutano tutte, che qui vedi ciondolare sti ragazzotti dalla mattina alla sera. I ragazzotti. Ma li vedi. Figurarsi, sono i bambini, li aiutiamo tutti volentieri. Vabbè, facciamo così, aspetta, facciamo così. Devo andare alle informazioni sul traffico. Poi vi diamo nuove notizie sul terremoto con una testimonianza. State con noi però. Carla Rocchi, Aurora Lussana, tra poco. Brum brum brum, c'è il traffico, Mila. Allora, sono le 6:48 minuti. Io intanto voglio ringraziare il nostro ascoltatore che abbiamo contattato. Si chiama Francesco da Force, in provincia di Ascoli Piceno. Giusto, Francesco? Sì, giusto, giusto. Grazie, so che stai entrando al lavoro. Ti lasciamo sì. Subito, ma ci devi raccontare qualcosa, insomma, di questa nottata. La nottata è passata male perché le scosse sono un continuo, anche stamattina due da 4 gradi tra le 5 e le 6, quindi cioè, continua a tremare. Ormai siamo abituati, noi stiamo su un paese che ha 60 famiglie sfollate dal terremoto precedente e ecco, è tornata la paura. Però, è incredibile però questa cosa, la testimonianza, tu dici adesso sto andando a lavorare, cioè la vita deve continuare, voglio dire. No, tanto qui non possiamo più fermarci, perché più ci fermiamo più continua a tremare, tanto... Il capannone sembra sicuro, quindi andiamo avanti. Questo sì, mi raccomando, intanto un abbraccio, ovviamente tutta l'Italia in questi casi si stringe, si unisce ed è giusto ed è bene che sia così. Francesco, noi ti ringraziamo, ovviamente buona giornata, anche se l'ansia, immagino, la preoccupazione, ma vedete, Francesco ci ha detto chiamatevi subito perché vi posso dare una breve testimonianza, poi devo continuare, devo entrare a lavorare, devo andare al lavoro, la vita che va avanti, da Force in provincia di Ascoli Piceno. Allora, cara Carla Rocchi, lo chiedo a tutti i cittadini di Roma, cara Carla, sta attenta, hai controllato in cucina che sia tutto a posto? Nella cucina mia è tutto a posto. Frigoriferi tranquilli, non si sono mossi di notte. Il frigorifero non si tocca perché è d'epoca. No, non è che di notte ha fatto qualche scherzo, magari ti fa lo sgambetto quando passi in cucina, magari. Ma guarda, i frigoriferi sono animati, come è noto, no? La sera escono, prendono un drink, e poi ci sono quelli che rimangono per la strada e quelli che tornano a casa. Evidentemente in questo periodo ce ne sono di più di quelli che rimangono per la strada. Bighellonano, sono un po' come i migranti di Aurora Lussana, bighellonano per le strade. Ciondolano. Questi. Ciondolano i frigori. Ragazzi, ma questa cosa adesso, al di là degli scherzi, è incredibile. Come ieri, giustamente, la due giorni Giuseppe Cruciani e la Zanzara fa sentire, ti dà fastidio se dico Giuseppe Cruciani, Aurora? No, una stella. Povera stella, posso ridirlo, Giuseppe Cruciani? Ma è bravo lui, eh? No, infatti è bravissimo. Non come te, Nicoletti, ma è bravo. Va bene. Oggi sono in buona. Sammy Varin non è molto d'accordo con te, comunque. Allora, Giuseppe Cruciani ha fatto chiamare fingendo il nostro Andro Mercu, fingendosi cittadino di Roma, all'AMA. Sentite, una brevissima chiamata. Chiama Roma 06 06 06, le dà il benvenuto. 06, dai. Roma Capitale, ecco. Buonasera. Eccoci qua. Buongiorno, senta, io dovrei buttare un frigo in un armadio. Che devo fare? Niente, perché il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio è stato momentaneamente sospeso il 18 di giugno, causa poi il contratto terminato tra la cooperativa e l'AMA. Chiarissimo, chiarissimo. No, Carla Rocchi, chiarissimo. Cioè, questo ha risposto in maniera perfetta. Dal 18 giugno è stato sospeso causa di nuovo contratto non continuato con la cooperativa 29 giugno. E il sindaco dice, non sappiamo perché è sospesa, è una vergogna. Devo dire che Roma vive un momento a modo suo magico, surreale e completo. Io penso che Dario Fo dall'altra parte si faccia certe risate, perché quello che sta succedendo a Roma è veramente un mistero buffo. Ma porca miseria! Non c'è niente e nessuno dice perché, ma nessuno nemmeno prende atto. Ma ancora lei lo dice, è stato sospeso tra il primo turno e il secondo delle elezioni. Altro sospettone di complotto. Ma poi comunque qualunque cosa sia successa, sospesa, a sto punto che facciamo? Siccome è un complotto non raccogliamo più niente. No, ma poi voglio dire, è stata sospesa e va bene, ci sono stati problemi di appalti, ma come vedete c'è chi lo sa. Basta una telefonata e il funzionario dell'AMA che risponde sa benissimo il motivo. Io do un consiglio a tutti i romani. Sì, oddio. Secondo me c'è una via d'uscita. Oh mamma mia, secessione. Sì. No, pregare. Per un attimo temevo che i carabinieri venissero a prenderci qui per attentato all'unità della Repubblica Italiana. Pregare. No, Roma è una cosa meravigliosa, che sono le chiese. Ecco. Andate in chiesa e pregate tanto. Secondo me è l'unico modo per uscire da questo momento drammatico. Aurora Lussana, ricordate la straordinaria battuta di Aurora Lussana: se ci fosse stata la secessione, tutto ciò, cara Carla, sarebbero tre righe nelle pagine degli esteri. Nelle pagine degli esteri. Pregate. Prego anch'io la mattina per la mia Benedetta. Preghiamo. Come sta Benedetta? Ah, siamo a 5,6 kg qui, latte qua padano della mamma va benissimo, la latte ancora, è tutto a posto. No, brava, una padana avrà latte per i primi 7 anni. Sì, poi la mattina le leggo i giornali, l'ho anche letto tanti autori di riferimento, già le piace tanto che le leggo. Le ho anche letto Alessandro Milan l'altro giorno, che ha intervistato... grande filosofi che ha fatto la storia. Ormai tu intervisti solo le pornostar del PD, però la bambina ascoltava. No, non intervisto solo le pornostar del PD, ho intervistato la pornostar del PD, Milena Mastromarino. Sì, ma la bambina gli è piaciuta, l'intervista. Però. Allora, pregate, noi abbiamo la rubrica, devo chiudere con la rubrica del giorno, lo psicologo di D'Alema. Ho questa rubrica, cara Carla Rocchi. Visto che è di Roma, sentiamo D'Alema e poi la sindrome. Votano sì prevalentemente soltanto le persone molto anziane, forse anche perché hanno maggiori difficoltà a comprendere il contenuto di questa riforma sbagliata. Ah, però, diciamo. I vecchi rincoglioniti. Va bene. È vero. Carla Rocchi, dottoressa Rocchi. Non so cosa votano. Non si sa. Dottoressa Rocchi, ti abbiamo eletto psicologo di D'Alema. La sindrome di D'Alema, Sto prendendo appunti, Ma la sindrome di D'Alema è che D'Alema, ecco, devo dire, a me sta simpatico in una maniera totale, non so, è una mia perversione. Però questa volta gli è proprio uscita male questa cosa, perché non ha senso, e poi secondo me una cosa così si dice in maniera, se vuoi, un po' guascona quando si hanno 25 quindi anni. Quindi possiamo dire sindrome da esagerazione. Esagerazione, una sindrome. Comunque, a me resta simpatico, capisco di essere una dei due o tre. Vabbè, ma uno psicologo deve empatizzare con il proprio assistito, e quindi va bene. Dai, vi saluto e vi ringrazio. Gli aggiornamenti sul terremoto ora nel giornale radio e poi rassegna stampa. State con noi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Milán de verdad, ya no podemos más de la abuelita que dice que lees el periódico mejor que nadie en el mundo. Basta ya, por favor, cambia la sigla. 24 mattino, di Alessandro Milán. Sono le 7:20 minuti in punto in questo momento, cari ascoltatori. Eccoci qui pronti alla rassegna stampa di 24 mattino. Ovviamente ci sono tante pagine legate al terremoto, anche se la cronaca più aggiornata la trovate proprio qui in diretta su Radio 24 durante tutta la giornata nella programmazione. Però molti giornali aprono su questa vicenda che ancora ha gettato nel panico soprattutto le popolazioni del centro Italia. Allora andiamo a sfogliarli questi quotidiani. È giovedì 27 ottobre, il Sole 24 Ore apre sulle pensioni, tutte le regole per chiedere l'anticipo, l'APE dunque. Ma la maggior parte dei quotidiani si dedica alle nuove scosse di terremoto che hanno colpito tra Umbria e Marche. Il Messaggero: torna l'incubo nel cuore d'Italia. Per il Corriere della Sera: doppio terremoto, crolli e feriti, forti scosse epicentro nelle Marche, paura a Roma. Repubblica: centro Italia, il terremoto infinito. Per la Stampa: torna l'incubo, terremoto sull'Italia. Il Giorno: terremoto, apocalisse infinita. Per il Manifesto: epicentro Italia, mentre l'Unità, l'Italia trema, notte di paura. Così Avvenire: trema ancora il centro Italia, crolli, blackout e tanta paura. Le aperture, se volete, diverse sono il Fatto Quotidiano: sgominata la banda del ponte di Renzi,